Allora, cominciamo e parliamo di inside, facciamo conto che l'abbiamo già descritta, che l'abbiamo già fatta. Allora, insomma, l'idea potrebbe essere quella di ragionare intorno a questo punto. Inside ha tutta l'apparenza, sembra una vera realtà virtuale senza il casco, senza le cose, senza la... Com'è che si arriva secondo te? Perché? Perché è una realtà, cioè come l'hai concepita? Ma insomma, questa è una domanda banale, ma perché secondo te funziona come realtà virtuale davvero? Perché lì, insomma, diciamo lo spaesamento percettivo è ovvio, eccetera, però effettivamente gli strumenti sembrano più semplici, sembrano meno sofisticati tecnologicamente, insomma. Perché effettivamente dal virtuale, appunto, che ha posto questo eterno problema del casco, c'è proprio stata l'idea di vedere come era possibile, quali erano gli elementi che ti facevano uscire, che ti portavano da un'altra parte. Così, una cosa che abbiamo notato è che il suono è già tantissimo, non per niente Gibson ha avuto l'idea guardando dei ragazzini col Walkman, e questi effettivamente ha visto che anche in una strada di metropoli era da un'altra parte. Quindi già con l'oracolo Ulisse il fatto di isolare la persona acusticamente già questo lo portava da un'altra parte. E poi c'è questo lato di dimensione altra. Allora, l'idea dello specchio che io ho visto appunto su Osnabrück nell'installazione di questi studenti universitari mi ha fatto capire che bastava il fatto di dilatare in modo fittizio uno spazio, per cui laddove tu ti aspetti uno spazio chiuso così invece lo vedi infinito. Ti porta di nuovo quell'errore percettivo che ti consente di aprire un'altra dimensione, come Certo. tutti gli errori. Oltretutto, il monitor inserito in un tunnel perde la sua valenza proprio completa di mobile, perché non c'è più, E ma è ti dimentichi solo, proprio che c'è a eh un sì, certo punto. e invece diventa pura superficie luminosa. Quindi, il fatto che già in sé il fatto che non è collocabile nello spazio perché non è una superficie che riflette la luce, ma è generatore di luce falsa, la tua distanza dall'oggetto. E quindi introdotto all'interno hai di nuovo questo ulteriore errore, quindi questa di nuovo dilatazione. Secondo me è anche il fatto che ti infili in un buco, cioè anche lì se andiamo a vedere tutte le storie, i racconti sciamanici, eccetera, eccetera, il modo per arrivare da un'altra parte C'entra con è la storia della fessura, sì, no, della fessura così, ma che cosiddetto poi se effetto andiamo a Fermi. vedere è la nascita, Certo, la che è scintilla proprio della nascita. passare attraverso un tunnel e arrivare in un altro mondo, ed è la morte, gli urti tibetani morti, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente tutte le volte che tu in qualche modo ripeti questi tragitti o queste sequenze, vai da un'altra parte. Ecco, allora quella è l'idea. Allora, appunto, l'idea è: il virtuale ci ha insegnato l'esistenza di un altro mondo in modo più concreto che qualsiasi racconto di sciamano, eccetera, eccetera, perché se passa attraverso il computer siamo disposti più a crederci. Allora, questo ti consente di recuperare tutti questi fattori e di ricomporli in altro modo, per cui prima fai la realtà virtuale. Capisci cosa c'è dentro nel virtuale, a questo punto torni fuori, ti guardi attorno e utilizzi tutto quello che hai e metti insieme questi elementi, insomma. Quindi questo serve, insomma, diciamo, esprime una non feticizzazione delle Sì, tecnologie, insomma. Le sì, tecnologie assolutamente. servono per fare questi tragitti, così, eccetera, dopodiché tu, una volta che le hai padroneggiate, le puoi usare o le Sì, puoi non usare, questo è sì, quello che vuoi dire. sì, sì. In qualche modo il computer è quello che apparentemente toglie significato. in verità toglie un significato forse di tipo linguistico, quello che siamo abituati a utilizzare, mentre gli dà il significato di informativo, di struttura di informazione, cioè di forma pura in qualche modo. Quindi ti abitua un po' a guardare tutte le cose non tanto per il significato che siamo abituati a credere, ad attribuirgli così, quanto per quello che veramente rappresentano e che veramente sono. Ecco. Parentesi filosofica, mi sembra che tu sia molto poco cartesiano da questo punto di vista e molto poco chomskiano, cioè tu non identifichi allora il linguaggio con il pensiero. No. C'è uno scarto tra i due. Se, sì, direi che proprio il computer te. Ha portato computer proprio serve, a questo. Nel senso, è vero che il linguaggio tra le varie tecniche che si usano è quello che meglio ha interpretato il pensiero, però da qui a dire che esaurisce o che il pensiero è nato col linguaggio, anzi, il computer quello che ti dice è proprio che l'origine del pensiero è precedente al linguaggio, non solo, ma addirittura ti dice anche che è precedente addirittura alla coscienza, cioè che le idee sono precedenti alla coscienza e che noi avevamo già le idee prima e le idee oltretutto agivano o evolvevano prima ancora che ci rendessimo conto della loro esistenza. Tu sai che c'è anche una interpretazione platonica, poi dopo chiudiamo questa parentesi filosofica, sì. Comunque sai che c'è un'interpretazione platonica di questo che insomma, tu dici, però non so se è la stessa che tu vuoi. Ma no, io sono abbastanza ignorante, no, nel che senso... in qualche modo sì, però Platone lo spostava fuori, è questo che volevo capire, mentre invece è vero che secondo te sono diciamo cose, immanenti le però idee, però sono assolutamente immanenti, sì, quindi sì. Sei più d'accordo con Bateson, diciamo, che sì, non sì. Con Platone, quindi sì, è una interpretazione per così dire cognitivista ma non razionalista, esatto, insomma. Esatto, sì. Questa era un po' la stessa cosa che avevo voluto far vedere con Ulisse, poi però voglio tornare sì. Su Inside dopo. Ecco, no, ci troviamo subito su Inside, perché quello che abbiamo detto, quello che hai detto tu sinora, come dire, riguarda, uso purtroppo delle categorie un po' diciamo semiotiche, riguarda la diciamo sintassi sì. Dell'opera, cioè c'è il tubo, c'è la cosa, eccetera. La mia diciamo impressione però è che tutto questo funzioni solo se l'immagine che sta sul monitor è diciamo adeguata a, sì. A questa idea, cioè non è che la cosa andrebbe bene, che ne so, con diciamo Topolino, no. O qualcosa, ci deve essere un'immagine. Sì. Allora, l'immagine che tu hai usato, questo è il punto a cui voglio arrivare, è Form in Progress, cioè se non va avverato la tua prima opera o una delle prime, non lo so, insomma, no, è stata passata quella, però utilizzando un mezzo vecchio, nel senso che è dell'89, quindi l'opera lo stesso è dell'89. Anno di Enigmatic Ages. Ho capito, però utilizzavi ancora 91, strumenti un po' prima, qualche insomma. Anno prima, però avevi utilizzato sì. Strumenti, gli stessi strumenti di quelli che erano e in qualche modo è stato all'interno di video tutti tridimensionali un ritorno anche al bidimensionale. Al bidimensionale, quindi in cui si vede questo pennello segno virtuale, dinamico, questo, sì. Questo pennello sì. Virtuale che diciamo questa matita virtuale che insomma disegna questa immagine sul sì. Coso, e questo funziona anche probabilmente perché sì. Perché ti dà come dire, ti dà effettivamente l'idea di un percorso, no? Sì. Cioè forse per questo che tu hai voluto usare quella o hai. Sì, anche so, perché come, poi come, questo come... qui in qualche modo, cioè il virtuale è, anche nell'immaginario è uno spazio mitico, poi certo. Facciamo di certo. Nuovo Gibson, certo. Sì, tutti sì. Quelli che ci hanno messo dentro lo vedono sempre. Quindi è una genesi, è un assistere, allora dentro ti aspetti il firmamento, le risposte alle ultime domande, i mostri o gli angeli, eccetera, eccetera. Quindi metterci dentro l'evoluzione di una forma, secondo me, era giusto proprio in questo senso, nel senso che è appunto un conto in mezzo, ma poi ci deve essere qualche cosa di adeguato al, questo è quello che già avevo visto con Satori, insomma, cioè mettere una cucina all'interno del virtuale è splendido per, sì, sì, per capire, sì, mezzo, però dici l'immaginario, sì, lì si ferma, sì, ecco. Cioè, voglio dire, deve, è come deve segnare le pecore per, sì, addormentarsi. Cioè, deve, la, diciamo, la mente di chi lo guarda, di chi c'è dentro, deve troppo lavorare per trasformare una cucina, esatto, cioè Mitsubishi o Matsurita, sì, che è in un mito. Sì. Allora tu dici, diamogli dei materiali che facciano già lavorare, sì, meglio. Esatto, che questo è di nuovo anticartesiano in qualche modo, cioè sai che non basta un'idea, ma devi rivestire comunque anche l'idea di un corpo, cioè non è solamente noi che dobbiamo essere visti come mente, come corpo messi assieme, ma è anche il computer a questo punto, bellissimo, è anche l'opera che bellissimo deve avere un corpo. Questo c'era già in Ulisse, nell'oracolo Ulisse, cioè l'oracolo Ulisse è stato, io prima la chiamavo scenografia, però poi ho capito che la scenografia, cioè, era il corpo del pensiero computer. Allora, il pensiero computer è splendido, affascinante, tutti ci siamo lasciati affascinare, l'abbiamo amato, però quando diventa anche corpo, a questo punto diventa proprio un altro da te, che incomincia a vivere nel mondo e che puoi trattare anche con un amico. Cioè, una cosa ad esempio che io ho notato a Ulisse, gli togli la pedana, come abbiamo fatto nelle ultime uscite, o gli metti una pedana larga e la gente non può non toccarlo, addirittura abbiamo dei problemi perché abbiamo trovato la gente che si sdraiava, non solo quelli che si sedevano, ma che stavano lì appoggiati, cioè queste due cose tonde, tu vedrai che appena ci sono tre persone ce n'è una che è appoggiata perché è di legno, il legno tutto sommato è vivo proprio al tatto, così, certo, proprio ti viene da toccarlo, l'high tech non lo tocchi, mentre invece, allora diciamo, l'high tech è di nuovo il pensiero, no? Cioè lucido, l'astrazione, mentre invece appena fai diventare appunto caldo, così, anche come forma, così improvvisamente viene più capito, ecco, come cosa. Allora l'idea è non solo il virtuale si rivolge al corpo, ma il computer è esso stesso anche corpo, può essere anche corpo. E quindi merita anche un po' più di forse rispetto quando cioè, sì, perché ti puoi relazionare a lui in maniera, sì, in maniera più complessa, sì, insomma. Eh sì, perché metti in gioco l'emozione, per cui di fronte a una persona o a un'entità che è fatta di mente e di corpo, inevitabilmente sei tu, anche se lui non ce l'ha, che gli metti, gli dai tutto il resto. Certo. Tu a volte esprimi questo fatto dicendo, non mi ricordo bene com'è la frase, ma insomma, che gli algoritmi diventano o si corporeizzano, o si, sì, com'è che dicono. Io appunto ero partito dall'idea dell'astrazione, poi perché effettivamente c'è un processo di astrazione, cioè minima per intenderci, certo, è un processo di astrazione. Poi però mi ero accorto che l'idea dell'astrazione che avevo io non era quella corrente che poteva. Allora finalmente ho capito che era il concetto di informazione la chiave. Allora il concetto di informazione, diciamo a livello comune, ha in sé un lato di astrazione, però ormai l'informazione è strettamente e sempre collegata alla materia, cioè è strettamente immanente, cioè il computer crea astrazione, però il computer è veramente silicio, cioè materia che si conforma, che prende forma, materia conformata, ma proprio letteralmente così, ecco. Quindi il concetto, e poi tutte le nuove scoperte scientifiche vanno tutte in questo senso, cioè il capire che l'informazione ha questa ambivalenza, ma questo è quello che riporta indietro, cioè ti dice che tutta l'astrazione in fondo è immanente ma non è trascendente, è tutta dentro nella materia ma non sta fuori. Ma allora a questo punto è come se il computer si dilatasse anche lui, non certo. Siamo solo noi che ci dilatiamo, ma è anche lui che si dilata, è come se il computer avesse improvvisamente dato intelligenza anche alla materia, cioè ci ha consentito di leggere la materia come intelligente. Allora a questo punto l'algoritmo io lo posso utilizzare all'interno del computer, ma posso utilizzarlo anche con la materia, quindi posso utilizzare un tipo di pensiero estremamente rigoroso, ma in questo senso. Sì, dimmi dove vai. Sì? Un attimo. La prima porta, questa qua. La luce sta fuori. Curva, devo far vedere dove stava il bagno a Maria. Se no, come stai? Grazie. Guarda, la cosa qua di Milano mi è andata bene. Chi l'aveva vista? Qualcuno l'ha vista, mi è andata bene. Non mi ricordo più. Eh? Ah, Vittorio me l'ha detto, Vittorio. No, vabbè, so, mi ha detto che è andata bene, questa è mica che non fa certo. Sono andato a Perugia benino, direi, cioè benino, no, bene, guarda, io sono quasi entusiasta, ma perché, insomma, ti ho detto, questa riscoperta di Trini mi ha proprio entusiasmato, cioè lui è uno di Tommaso Trini. E Tommaso Trini era uno fra i primi che io avevo letto nei primi anni 80, eccetera. Poi era scomparso dopo l'84, non se ne aveva sentito parlare. E invece no, sarà stato anche un po' perché a Pica Perugia, come dire, abbiamo un po' insomma dialogato io e lui, cioè io mi sono arrogato, cioè ho parlato sul tema storia dell'arte, insomma. E lui ha ripreso delle cose, si chiude lo cazzo. Grazie. Schiaccia lì. E l'astrazione. Ecco, Per cui, per fare un esempio, l'oracolo, appunto, proprio l'oracolo. Io che cosa ho fatto? Sono andato, ti ricordi che già anni fa, poi anzi sei stato tu che mi hai consigliato quel libro, così. Allora mi sono letto tutto quello che era possibile leggere sui Qing, poi lì sulla Mesopotamia, i sciamani, la lettura eccetera eccetera, e che cosa ho fatto? Ragionando in modo cibernetico, diciamo, ho cercato di vedere che cosa, qual era l'algoritmo oracolare. Cioè, ho scoperto che veramente c'erano alcuni elementi che ricorrevano sempre. Allora, io ho tirato fuori questi elementi, che erano, non so, l'aspetto scenografico. Quindi si va dalla grotta, al fatto che l'oracolo è vestito in un certo modo, i fumi, certo. Eccetera, eccetera. Poi, il collegamento tra oracolo e chi fa la domanda. Poi l'atteggiamento di chi si pone di fronte all'oracolo, che deve essere di dubbio, quindi comunque la scenografia è fatta per tirarti fuori e spaventarti in qualche modo, perché deve essere la paura, cioè il non sapere il futuro, che ti fa in modo di ricevere l'oracolo. Allora, tutte queste cose le puoi tirare fuori, puoi costruire proprio un algoritmo, e a questo punto prendi altri elementi, li metti insieme e appunto, come vedi un programma, poi lo lanci e vedi cosa succede, ed effettivamente è funzionato perfettamente, per cui lo stesso, in modo ancora più evidente, è stato con Inside. Anzi, con Inside avevo verificato questa cosa, per cui nell'oracolo c'è in qualche modo una sovrabbondanza di elementi per la paura che non siano abbastanza, così questa paura mi è passata e allora Inside è molto più pulito, hai diciamo sottratto cose, hai lavorato così. Allora ogni elemento fa gioco, quindi dall'uovo, dalla figura che c'è sopra l'uovo, dalla costruzione esterna, eccetera, e poi da quello che ci metti dentro, dalla musica, dalla posizione che deve assumere la persona, così sono tutti elementi che devono portare a questa. Allora utilizzi il computer e quello che, quindi il computer come mente e poi il corpo del che è sempre algoritmo mente, algoritmo corpo, informazione mente, informazione corpo. Quindi tu mi sembra che tu abbia un po' questa diciamo idea che come c'è una mente diffusa, diciamo appunto bettesonianamente, ciberneticamente, sì, nel senso ciber olisticamente, così in fondo tu pensi che ci sia anche un corpo diffuso, cioè sì, che ci sia che non ci sia mente senza corpo e corpo senza mente, cioè che proprio non puoi distinguere le due cose, cioè appunto come dicevi tu Platone, appunto non penso che ci può essere un mondo delle idee e non penso che ci possa essere un mondo di pura perché poi cosa si dice materia bruta, ormai non è brutta, sappiamo che non possiamo non è più dirlo, brutta, però penso anche a questo punto, e lì la cosa si fa interessante, che non possono esserci altre idee se non la materia, nel senso che non ci possono essere idee al di là della materia o che dicono cose diverse da quello che è il gioco della materia, non ci possono essere informazioni se non quelle che già ci sono dentro, cioè il fatto che la mente è fatta da materia organizzata fa sì che non ci può essere niente al di là di quello che c'è. Non ti sembra che questo sia a me sembra di aver detto delle cose simili, però dette in altra forma. Non ti sembra che questo sia una rivalutazione dell'idea di diciamo potenza, di potenzialità rispetto a quella diciamo di atto, cioè in fondo che anche la virtualità sia stata proprio il rilancio di ma guardate, ci sono in fondo quello che hai detto prima, si può dire in altri termini, diciamo così, ci sono più cose dentro la materia di quelle che non si vedano, sì, a prima vista, sì, in realtà poi bisogna tirarle fuori, cioè sì, non è semplice, sì, sì, no? È probabilmente sì, l'arte. Allora questo però vuol dire, almeno non so, a me sembra che possa voler dire che la diciamo categoria della potenzialità, sì, sì, abbia ripreso, cioè nei come dire, confronti del pensiero piattamente materialistico, sì, banalmente materialistico del determinismo, sì. Cioè, vuol dire materialismo non vuol dire determinismo, insomma, sì, non vuol dire, perché dentro la materia in realtà ci sono tante cose, nulla va oltre, sì, la materia, però prima di trovare quello che c'è davvero, insomma. Sì, esatto, cioè, difatti, perché poi di pari passo è appunto l'universo infinito, ma è infinito non tanto perché spazialmente è infinito, ma perché infinite sono le prospettive dalla quale lo puoi considerare, quindi questo è la sua infinità. Comunque anche dal punto di vista spaziale, cioè, e poi dal punto di vista spaziale è infinito. Quando perché, tu metti la testa dentro Inside, a me la prima cosa infinito, che mi ha preso, sì, è stata non infinito, c'è più termine, esatto, infinito, cioè, no, esatto, è tutto ovunque intorno, sì, a me. Poi in realtà non è un intorno, perché è una parete di fronte a me, sì, però lì vabbè gioca la forza della luminosità eccetera eccetera, per cui ti sembra la luce, però lì è proprio... sì, ecco un'altra cosa del probabilmente che c'è in Inside, che è proprio del virtuale, è che la materia del virtuale è luce, ecco. Certo. Allora lo specchio è un monitor finalmente chiaro, non a cristalli liquidi RGB bello luminoso, così ti scaraventa immediatamente in una dimensione virtuale, perché difatti è il gioco, il passaggio del buio e della luce, la scomparsa, cioè, della luce, l'istante in cui diventa buio. Allora quando uno spazio vive di luce, improvvisamente uno spazio lo riconosci immediatamente come spazio altro. Certo. Che però, come dire, di nuovo non è perché è il Dio che si manifesta, ma è la luce, è proprio la fisica che dice questo. Sì, oppure è il Dio dei greci, diciamo il pastore che vede il pan. Dio, però appunto campagna, il Dio, cioè, come dice Suzuki, no, bisogna, il paradiso va riconosciuto, non va conquistato. Ecco, questo probabilmente è quello che ci insegna il computer. Secondo me il computer proprio ti, perlomeno nella mia storia, ti insegna che basta fare uno scarto di e addirittura nel suo aspetto più stupido, nel senso, nella sua impossibilità di fare certe cose, quando sei costretto, mi ricordo una volta anche Eco aveva trattato sulla stupidità del computer. Allora, quando tu ti trovi di fronte a un errore con il computer, prima ti leggi il manuale, segui le procedure, eccetera, e poi incomincia il vero viaggio. Il vero viaggio è tenti di tutto. Ecco, allora questo tentar di tutto vuol dire continuamente cambiare le prospettive. La deviazione. Questo è Lucrezio, sì. Il clinamen lucreziano. Sì. E allora continui, lo guardi prima da questa parte, poi guardi dalla... E alla fine, dopo un po' di anni che sei abituato, per forza di cose lo porti anche nel tuo atteggiamento nei confronti del tuo lavoro, della vita sociale, eccetera. Cioè, vedi che una cosa non va in un certo modo, invece di diventare scemo, di sbattere la testa così, provi a spostarti e a guardarla da un'altra angolazione e così via, insomma. E questo non è un caso, allora, il recupero delle dottrine orientali da questo punto di vista. Ti abitui a vedere le cose non come fisse, ma provi sempre a spostare e questo ti insegna anche che poi nell'arte è sempre stato fatto, guardi un oggetto e allora lo puoi vedere come rifiuto, come cosa che serve, e invece dici, ma questa cosa qui, se la guardo da un altro punto di vista, può essere anche un'altra cosa. E allora trovi anche modi nuovi di metterle insieme. Ecco, certo. Questo è un po' la... Questa storia dell'Oriente e del computer, ancora una volta l'avevano vista già gli autori di fantascienza. Direi proprio gli autori di fantascienza avevano già visto tutto, con direi che poi tutta l'esegesi che è stata fatta dopo non ha fatto altro che confondere quello che con chiarezza avevano già espresso. E quindi questo tu in qualche modo tendi a, come dire, vederlo anche nella tua storia, cioè questa sorta di utilizzo, cioè adesso se uno fa sono 12 anni di storia, diciamo, di ricerca elettronica, di artista elettronico, in fondo tu sei passato, sembrerebbe, da una fase di tipo, da un lato legata con la storia dell'arte, dall'altro però di conquista dell'astrazione, cioè del segno puro, eccetera eccetera, e poi invece a poco con quella meravigliosa, secondo me, opera di snodo che è Columbus Egg, ma anche l'anno prima Enigmatic Ages, arrivi e passi alla, chiamiamola così, concretezza o messa in gioco del corpo che c'è dentro il, diciamo, virtuale, insomma. Si può leggere così, non si può leggere così? Io penso di avere sempre avuto degli assilli e delle idee fisse, e alla fine di aver sempre girato un po' attorno a quelle, cercando mano a mano di chiarirle e di eliminare tutto il superfluo che c'era, insomma. Quindi in fondo a me è sempre piaciuto, mi ricordo quando disegnavo, che era proprio il tratto, no? Mi chiedevo sempre, ma perché non un millimetro più in là, perché qui? Allora mi rifacevo alla necessità interiore di Kandinsky, così. Poi alla fine adesso preferisco pensare al senso, e il computer mi ha dato tutti gli elementi per chiarire meglio questa cosa. Allora io dico, è una ricerca continua della forma e del senso, cioè questo creare dei collegamenti e improvvisamente ti accorgi che questa cosa vive da sola, cioè ha una sua struttura unitaria e un sistema che incomincia a marciare con le sue gambe, eccetera. Per cui direi che non mi sono mai fatto problemi di né di stile, quella è sempre stata, mi ricordo, la mia pecca quando dipingevo, per cui ogni 6 mesi io cambiavo completamente e tutti i galleristi mi dicevano: ma o tu ti fissi su qualcosa oppure non vedi. E per me, difatti, il passaggio dalla pittura al computer è stato un po' questo, cioè nel computer non gliene fregava più niente nessuno. Vuoi perché appunto si chiamava computer art, quindi potevi fare qualsiasi cosa, niente era stato fatto, ma vuoi perché il mezzo stesso è questo che ti richiede, cioè non c'è più nessun tipo di distinzione di questo genere, e questa è la grandezza. Adesso quello che sto facendo semmai è staccarmi in qualche modo anche un po' da tutte le parole d'ordine dell'ambiente, del mondo degli artisti elettronici, insomma, ecco, perché dico, se una lezione ci ha insegnato in questi anni è proprio questo, cioè dobbiamo anche andare per la nostra strada facendo meno anche dell'ultima diavoleria tecnologica, perché quello non è importante, cioè tradiremmo lo spirito stesso e il buono in cui tutti noi crediamo delle buone tecnologie se pensassimo che quelle esauriscono il tutto e dovessimo sempre rimanere in quell'ambito, insomma, ecco, è lo sguardo che ci hanno donato che dobbiamo portare fuori e che ci ha arricchito. Non si potrebbe dire meglio. Proprio. Senti, questa cosa secondo te non è che però ci aiuterà, vi aiuterà a essere, diciamo, riconosciuti dal sistema dell'arte? Non è il fatto che l'artista tecnologico, tra virgolette, abbandona questo, io ci sto pensando l'altro giorno, invece è quello che ancora una volta ci fotterà, nel senso che nel momento in cui essere elettronici sarà veramente passato, e ancora una volta cambieremo e non vorremmo più saperne di tecnologia, perché è sempre stato cazzo così. Insomma, essere gasiamoci un po', essere sempre un passo davanti agli altri non è molto produttivo dal punto di vista della cosa, questo è, ho già capito che sarà così, perché questo è già quello che sta succedendo, insomma. Quindi vuol dire che tu nella prossima fase, insomma, stai, come dire, pensando di anche di non avere il dogma del, insomma, di sfruttare anche altre tecniche, anche perché il personal computer sta diventando uno strumento veramente di una potenza impressionante. Due, è veramente il mezzo che utilizza, ad esempio in Inside la musica non è musica digitale, è musica analogica, però è riversata su CD-ROM, che viene utilizzato e mi dà una facilità, una qualità musicale, una facilità di uso, eccetera eccetera, che è incredibile. Allora, ecco, cercare di usare la tecnologia non più come anche è stato nel virtuale, cioè questa tremenda lotta per fare sì che tutto funzioni, ma usarlo proprio per le facilità di andare da tutte, di piani, slittamento da tutte le parti, ecco, quindi e appena slitti dire va bene, qui non uso il computer perché va bene un'altra cosa, ma uso tranquillamente l'altra cosa, quindi non negarlo, ma nemmeno, cioè, andare liberi, darti tutto quello. Vabbè, ma che nel tuo lavoro ci sia sempre stata una, come dire, una forte componente analitica, concettuale, lo dico non nel senso dell'arte concettuale, insomma, ma questo era ovvio, per cui sono sempre stato così, quindi probabilmente tu c'è una fase in cui va bene una cosa, una fase in cui va bene un'altra. Però, insomma, ti riconosco una, come dire, notevole fedeltà almeno per la fase che ti ho conosciuto io, insomma, poi per la tua fase pittorica conosco poco, visto solo qualcosa delle ultime, penso siano le ultime che avevi fatto, no? Però almeno in questa fase sì. Però qualche accentuazione diversa forse da un momento all'altro c'è. Per esempio, penso a una cosa, non so, te ne, come dire, propongo una, non so se sia. Mi sembra che adesso tu insisti molto in maniera sulla polarità. La polarità maschile e femminile che c'è nell'altra installazione, la, insomma, c'è questa. Da che cosa, cioè come la vedi questa, da che cosa ti deriva? Cioè, questa è qui è anche un po' di anni, perché anche tutte le cosmografie era proprio una cosa sulle polarità. Sulla polarità, probabilmente deriva anche dalla mia storia personale, quindi comunque il cattolicesimo in qualche modo da risolvere da qualche parte, ma poi soprattutto è questo. Poi anche il mio essere occidentale fino in fondo, quindi per me come occidentale lo scoprire che la polarità non è qualche cosa che va superata, ma è qualche cosa che va giocata, è una cosa che non continua ad affascinarmi incredibilmente, perché ogni volta che la prendo in esame mi accorgo che succedono cose. Anche perché poi anche lì vita artificiale, cioè la definizione di Langton, che la vita è un insieme di comportamenti, quindi di relazioni, così, per me di nuovo, che ho sempre creduto nella centralità, negli oggetti, così, questa è una cosa incredibile, per cui capire che il senso scaturisce più che da una cosa che metti lì, ma dal gioco che avviene tra due poli, ed è l'oscillazione tra due poli l'informazione e il senso, non è quella cosa lì che è bianca, quella cosa lì che è nera, ma è questa cosa che continua a oscillare dal bianco e il nero. Non sono le qualità, tutto, ma sono le, diciamo, relazioni. Esatto. Questo ha a che fare anche con questa figura del doppio serpente che hai messo al centro dell'oracolo. Sì, no? Sì. Ecco, e poi semmai se un'evoluzione c'è stata è che mentre prima appunto questo lato concettuale si risolveva nel tentativo comunque di dimostrare qualche cosa, invece adesso è in quello di fare succedere qualche cosa, e questo di nuovo è stato il virtuale, stato e tutte virtuale, le discussioni, cioè capire che l'evidenza della realtà, per cui diciamo che questo oggetto c'è e basta e nessuno ci discute sopra, poteva essere portato anche nel mondo delle idee. Sempre paradossi, cioè la virtualità ti fa riscoprire la concretezza. Però la realtà virtuale, è stato, ci siamo accapigliati accapigliati e scontrati tutti, perché in qualche modo è stata proprio la cosa incredibile, cioè improvvisamente c'è il virtuale, allora la prima cosa da dire è: ma che cos'è reale se quello lì è il virtuale? E quindi ecco, e lo scoprire che anche all'interno, appunto, l'evidenza della realtà può essere portata anche nel mondo delle idee, per cui ci sono delle idee, dei pensieri che non hanno bisogno di nessuna logica, ma semplicemente ci sono e basta, e questo è proprio quello che cerco di fare, nel senso, nessuno può dire di insight che è giusto, che è sbagliata, ma che c'è o che non c'è, e se c'è, c'è e stop. Questo è secondo me lo splendido. Ognuno scoprirà nuovo dentro di sé, di sé, fuori, insomma, intorno a sé, se c'è o se non c'è, perché può anche essere che non, qualcuno non c'è, sia, non ci sia. Sì, però sì, tu offri come sempre una possibilità a tutti quelli che sono lì di scoprirla o di non scoprirla. Insomma. Cioè, è la valenza ontologica dell'idea, ecco, quella che può. Allora lì entra tutto il gioco degli archetipi, allora se devo andare indietro a vedere mi rifaccio a quelli, perché difatti anche l'altro giorno quando ho fatto vedere la sequenza di diapositive mi accorgo che per un sacco di tempo cercavo sempre di spiegare questi concetti e vedevo sempre dei gran sorrisini nell'audience. Facendo vedere una sequenza di diapositive così e poi alla fine quando arriva il DNA tu senti questo di sorpresa, che sai che non devi più dire niente, perché è talmente evidente, sta lì, per cui poi possiamo farci tutti i discorsi, ma quello lì è un dato di fatto, appunto. Ecco, anche le idee possono avere dei dati fatti. Allora, poi, oltretutto, in un tempo in cui morte delle ideologie, nessun punto di appiglio, eccetera, eccetera, secondo me, se dobbiamo vedere tutto questo come positivo, e secondo me è assolutamente positivo, è finalmente campo sgombro per poter vedere queste cose, cioè per poter vedere che ci sono delle idee che non hanno bisogno di nessuna potenza per affermarsi, ma semplicemente del fatto che si presentano come esistenti e basta, per cui quelle sono lì e sono sempre lì, potranno essere utilizzate male o bene, ma sono lì e nessuno potrà togliercele, perché nessuno ci può togliere, per quanto tentiamo di fare, la nostra storia di nascita e di morte, insomma, per quanto tentiamo di fare. L'evidenza della vita, insomma, sì. L'esperienza della vita, anche se sì. Poi tutto che è il tentativo, ecco, cioè io vedo un tentativo di ricreare tutti i parametri dell'uomo, no? Ma secondo me alla fine non si sfugge da certi, cioè possiamo negarli, dall'inseminazione artificiale alla morte che non è morte, no? E sono tutti tentativi in qualche modo di negare questi limiti, che insomma tutta la storia della filosofia ci ha sempre detto che è vero che sono limiti, ma sono le uniche cose sicure. Certo, no, ma sì, non solo la storia della filosofia, ma tutta la... Ecco, certo, questo, la... allora c'è questa fase così, dall'altro lato c'è invece, questa è puramente estetica, la riscoperta del piacere della creazione. Ecco, se un passaggio ho compiuto con l'anno scorso rispetto a tutta la storia precedente è che improvvisamente la creazione non è più un assillo, ma è una cosa che succede, perché è lì, nel senso che ormai il sapere che ci sono delle strade che percorri e quelle ti portano sicuramente da qualche parte. Ecco, questo è un commento che verrebbe spontaneo, ma non lo faccio, perché ovviamente è scattivo, è insomma riduttivo, uno potrebbe dire c'è finalmente la maturità, però secondo me è una maturità. Beh, no, ma è vero, perché no? Non lo mettiamo lì, però è esclusivamente quello. Cioè, è esclusivamente quello. E poi c'è anche tutto l'altro discorso che ho fatto anche l'altro così, delle coincidenze significative, nel senso che no. Di nuovo un'altra, e anche lì in qualche modo il computer ha avuto la sua parte, perché in fondo il computer guarda le reti così, è una storia di connessione tra l'inconnesso. Cioè il fatto di saltare nella rete da una parte all'altra ci obbliga a dare un senso a questa, che non è più un senso di causa-effetto, perché anche il fatto che sono qui, mi collego, prima sto alle Way, poi un secondo dopo sono di là, però so che comunque questo mio percorso non è mai rettilineo, incominci a prestare attenzione alla connessione pura e semplice, e incominci a dare un senso alla connessione per il fatto stesso che la connessione c'è. Ecco, allora all'interno di un discorso di creazione, diciamo che il metodo che ho strutturato è quello di fare in modo che a un certo punto queste connessioni saltano fuori, che in genere succede quando ti fissi su un pensiero e prima approfondisci quel pensiero e poi incominci in qualche modo a romperlo, cioè ad allargarlo e a guardare in giro le cose, però da quel punto di vista. A vedere le radici le radici, o diciamo le linee che da lì ti posso portare ad altre cose, però effettivamente se non ti se non c'è studiato a lungo lì sopra, le connessioni deve essere assolutamente così. Anche questo è paradossale, però è così che di nuovo mi viene da pensare al surf, che di nuovo è un'altra figura che si usa tantissimo, certo, in questo, perché a un certo punto veramente sei sull'onda, nel senso che devi essere bravissimo, devi sapere stare sulla tavola, devi stare attento al tempo, a come ti sei vestito, cosa hai sui piedi, eccetera eccetera, però quando sei sull'onda, vai sull'onda e il salto lo fai su quell'onda lì, in quel momento lì, eccetera eccetera. E se tu pensavi prima a tutto, non riuscirai mai, cioè a un certo punto ti devi far portare dall'onda. Quindi il computer secondo me ti dice: se tu vuoi entrare qui dentro devi connettere bene tutti gli spinotti, devi avere un software che funziona, la telefonica giusta, così, però poi viaggia, se no sei fottuto. Senti, facciamo ancora metafora, ti scoccia su una cosa però che riguarda il tuo, diciamo, lavoro. Allora, connessione eccetera, collettività, collettivo. Questa è una discussione, c'è stato il libro di Pierre Lévy, abbiamo visto che c'è gente che non ci crede tanto, come per esempio che io. Nella tua esperienza, tu da quando fai, da quando hai fatto la svolta verso la tecnologia o nell'uso della tecnologia, non hai mai lavorato da solo, cioè fai le tue opere, fai le tue cose, però tu sei, insomma, diciamo, correnti magnetiche, hai fatto correnti magnetiche, c'è passata dentro tanta gente, ma sono anche dei nuclei, tu sei il nucleo più stabile, ovvio, perché l'hai tirato fuori tu, insomma, però adesso correnti magnetiche sei tu più nettamente, insomma, polarizzata. È appunto polarizzata, Flavia e insomma, Sabine. Che cosa ha voluto dire per te questa dimensione, diciamo, che non è di collaborazione classica, no, insomma, però in qualche modo ci sarebbero state le tue cose se non c'era correnti magnetiche? Secondo me no, perché la mia tendenza è un po' quella di intrupparmi, cioè di prendere una strada e poi di andarci dentro proprio un po' troppo, ecco. E quindi con un effetto di esaurimento in qualche modo. Invece il fatto di avere delle persone esterne, ma soprattutto delle persone esterne che dopo 8-9 anni che siamo insieme, cioè conosciuto molto bene, serve continuamente appunto per creare quel gioco tra le polarità che continuamente mi ritorno indietro, ma noi addirittura, come dire, non parliamo nemmeno delle nostre opere. È tutto il resto, è fatto di infinite cose, però io mi sono accorto che costringe me a una verifica costante di quello che sto facendo, a raddrizzare sempre l'orecchio e il naso su tutto quello che sta succedendo. Quindi per me è il miglior modo per fare esattamente quello che voglio, stranamente, poi con tutti i casini del gruppo, certo, lo stesso, però è la maggiore libertà e secondo me è la maggiore identità, ancora una volta, altro paradosso, deriva dal fatto quando tu ti neghi in qualche modo ti ritorni indietro tutto più ricco, insomma, sì, se stai lì ad aspettare. Questo qui è proprio essenziale ed è quello che mi consente poi anche di avere tutta una serie di collaboratori che anzi penso che nel futuro saranno sempre di più, ma sempre più magari puntuali, cioè non ci